Letture di Radio 24. Un braccialetto anti-slot. Lo sta realizzando l'Università di Pavia e nel 2016, con l'aiuto del Comune, punta a sperimentarlo su 2000 giocatori patologici della città lombarda, che conta una slot machine ogni 150 abitanti. Il braccialetto conterrà un chip grande come una monetina da un centesimo che si attiva quando il ludopatico si avvicina a una sala giochi. Il braccialetto vibra, stimolando così la capacità di controllo del paziente, con un meccanismo che è già stato testato in America con gli obesi nei fast food. Se poi il ludopatico blocca la vibrazione ed entra nella sala giochi, l'allerta può ricominciare e far scattare la chiamata telefonica di un operatore. L'obiettivo è promuovere la possibilità di mantenere da sé un profilo di benessere, ha spiegato Gabriele Zanardi, neuropsicologo, che sta lavorando anche a un'app per smartphone. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Daniele Castellani Perelli, Pavia combatte la ludopatia con un bracciale, dal venerdì di Repubblica del 4 dicembre. Ritardi, code interminabili agli sportelli, pacchi spediti e mai arrivati a destinazione. Guarda caso però le bollette o fatture arrivano sempre. Sono solo alcune delle lamentele più comuni che i cittadini rivolgono a Poste Italiane. Ma almeno per quanto riguarda i ritardi, c'è chi è riuscito persino a battere il nostro servizio postale. 2600 lettere datate tra il 1680 e il 1706 e mai consegnate al destinatario. Un piccolo tesoro su cui ha messo le mani un gruppo di accademici internazionali che sta ora leggendo e analizzando il loro contenuto per gettare nuova luce sulla vita quotidiana degli olandesi del XVII secolo. Dalla richiesta di aiuto di una giovane donna al padre del figlio che porta in grembo, alla supplica perché un'amica partita per Parigi in cerca di fortuna, ma incorsa in mille avversità, sia aiutata a tornare a casa. Ma anche avvertimenti ad amici di non mettersi in viaggio per via di sommosse in corso, cambiamenti politici, rischi di guerra. Le lettere sono contenute in un baule appartenuto a tale Simone de Brienne, di professione portalettere. Baule finito nel 1926 a un museo postale dell'Aia e lì dimenticato fino all'arrivo degli studiosi provenienti anche da Oxford, dall'MIT e da Yale. Non bisogna però pensar male della professionalità del povero Simone de Brienne. Le lettere non furono mai consegnate perché ai tempi la spedizione veniva pagata dal destinatario e se questi aveva cambiato indirizzo o rifiutava il ritiro, la posta restava nelle mani del messaggero, il quale la conservava nella speranza che prima o poi qualcuno la ritirasse e di conseguenza lo pagasse. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Un ritardo postale da record, dal Magazine 7 del 4 dicembre. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero? Certo. Con le trasmissioni in digitale, la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Letture di Radio 24. Si racconta che il 9 giugno del 1870, appena presa la notizia che Charles Dickens era morto, una ragazzina chiese: «Ma allora morirà anche Babbo Natale?» Tale era la popolarità del canto di Natale e dei racconti natalizi pubblicati con cadenza quasi annuale a partire dal 1943, che nel corso degli anni finirono per rappresentare l'immaginario stesso dell'atmosfera natalizia, al punto che nel 1988 il Sunday Telegraph definì Dickens l'uomo che ha inventato il Natale. Il primo testo natalizio scritto da Dickens precede di 7 anni il popolare A Christmas Carol e fa parte degli Sketches by Boz, una raccolta di saggi che finora non era mai stata tradotta in italiano in versione integrale e che ora viene proposta dalla casa editrice Mattioli 1885 con il titolo Il grande romanzo di Londra. Contrariamente a quanto avrebbe scritto qualche anno dopo in uno dei suoi racconti di Natale più famosi, Il patto con il fantasma, dove il protagonista ottiene il dono di dimenticare il proprio passato, ma alla fine capisce che in questo modo avrebbe rischiato di perdere anche le proprie emozioni, qui Dickens invita i lettori, almeno in occasione della cena di Natale, a mettere da parte i pensieri tristi e a non soffermarsi sul passato. Chi può rimanere insensibile nei confronti delle espressioni dei buoni sentimenti e dell'attaccamento affettuoso che abbondano in questo periodo dell'anno? Una festa familiare di Natale. Non esiste nulla di più bello. Anche nel solo nome del Natale sembra ci sia della magia. Sono dimenticate le piccole gelosie e le piccole discordie. Perfino nei cuori rimasti troppo a lungo estranei tra loro si risvegliano sentimenti e affetto reciproco. Padri e figli, o fratelli e sorelle, che nei mesi precedenti si sono incontrati e si sono passati davanti evitando di guardarsi o scambiandosi appena un freddo sguardo, offrono e ricambiano un cordiale abbraccio e nella felicità del momento seppelliscono la loro passata animosità. Cuori generosi che si sono ardentemente desiderati fra loro, ma che sono stati trattenuti da idee sbagliate d'orgoglio e di dignità, sono di nuovo riuniti e tutto è finalmente bontà e benevolenza. Sarebbe bene che il Natale durasse tutto l'anno e i pregiudizi e le passioni che traviano la nostra migliore natura non dovrebbero mai verificarsi tra coloro per i quali non dovrebbero mai esistere. La festa familiare di Natale a cui ci riferiamo non è solo un'occasionale riunione di parenti decisa con un paio di settimane di preavviso e senza che vi siano stati precedenti negli ultimi anni e che non sarà ripetuta l'anno successivo. No, si tratta dell'incontro annuale di tutti i componenti disponibili della famiglia, giovani o vecchi, ricchi o poveri, che tutti i bambini attendono già da 2 mesi prima, con un'ansia gioiosa. La vigilia di Natale, la nonna è sempre di ottimo umore. E dopo aver impiegato tutti i bambini durante il giorno per fargli snocciolare le prugne e cose del genere, regolarmente ogni anno insiste perché lo zio George scenda in cucina, si tolga la giacca e mescoli energicamente il budino per mezz'ora o poco più, cosa che lo zio George esegue ben volentieri, per la gioia chiassosa dei bambini e dei domestici. La serata si conclude giocando festosamente a mosca cieca, con il nonno che all'inizio del gioco cerca in tutti i modi di farsi prendere per avere l'opportunità di far vedere quanto ancora sia in gamba. La mattina dopo, in gran pompa, l'anziana coppia e tutti i bambini che il banco può contenere si recano in chiesa e la zia Georgina rimane a casa a spolverare le caraffe e a riempire le stufe, mentre lo zio, intralciando tutti, porta bottiglia di vino nella sala da pranzo e cerca i cavatappi. Quando coloro che sono andati in chiesa tornano all'ora di pranzo, il nonno tira fuori dalla tasca un rametto di vischio e persuade i ragazzi a baciare le loro piccole cuginette sotto il rametto, cosa che produce sia ai ragazzi che al vecchio signore un piacere sconfinato, ma che offende alquanto le idee che ha la nonna sulle buone maniere, fino a che il nonno dice che quando aveva 13 anni e 3 mesi, lui pure aveva baciato la nonna sotto un rametto di vischio, al che i bambini battono le mani e ridono di cuore come fanno anche lo zio Giorgio e la zia Georgina. E la nonna sembra contenta e sorridendo compiaciuta dice che il nonno era un giovanotto alquanto sfacciato, al che i bambini scoppiano di nuovo a ridere proprio di cuore e il nonno ride di cuore più di tutti gli altri. Un esitante doppio colpo al portoncino di strada, udito durante una momentanea pausa di silenzio in mezzo alla conversazione generale, fa dire a tutti in modo vivace «Chi sarà?» e 2 o 3 bambini, che sono corsi alla finestra, a bassa voce annunciano che è la povera zia Margaret, al che lo zio George esce dalla stanza per andare a ricevere la nuova arrivata. E la nonna si irrigidisce e diventa severa, perché senza il suo consenso Margaret ha sposato un uomo privo di mezzi e dal momento che la povertà non è una punizione sufficientemente severa per il crimine che la figlia ha commesso, è stata allontanata dagli amici ed esclusa dalla compagnia dei suoi parenti più cari. Ma è pur sempre il giorno di Natale e il risentimento che per tutto l'anno ha contrastato disposizioni d'animo più affettuose, oggi si è dissolto grazie alla straordinaria influenza della giornata, proprio come un leggero strato di ghiaccio sotto il sole del mattino. La cena, poi. tutto è così piacevole, nulla va storto, e tutti sono d'ottimo umore, tutti con la migliore disposizione d'animo reciproca. E così trascorre la serata, in uno sforzo di razionale buona volontà e spontanea allegria, che risveglia fra tutti i sentimenti profondi di reciproca comprensione e affetto, e fa durare i buoni sentimenti anche l'anno successivo, più di quanto non faccia la metà delle omilie che siano mai state scritte dalla metà dei teologi e dei sacerdoti che siano mai vissuti. Avete ascoltato la lettura del saggio di Charles Dickens La cena di Natale, tratto dal libro Il grande romanzo di Londra. Mattioli 1885 editore, 366 pagine, €16,90. Sketches by Boz non è l'unico libro di Dickens a non essere mai stato tradotto integralmente in italiano. Può sembrare strano che esistano ancora così tante lacune nella bibliografia di uno dei maggiori scrittori di tutti i tempi. Ma va ricordato che fino a qualche decennio fa, Dickens godeva di scarsa popolarità nel nostro paese. Durante il fascismo era disprezzato perché nei suoi romanzi si era sempre battuto per i diritti della working class, ma nei decenni successivi è stato ancora più ostracizzato dalla sinistra, che lo considerava uno scrittore borghese. Per molto tempo sugli scaffali delle librerie era più facile trovare riduzioni per ragazzi dei suoi romanzi che le versioni integrali. Ed è solo a partire dagli anni 90 che Dickens ha avuto finalmente l'apprezzamento che si merita, anche se c'è ancora una parte della critica di sinistra che mostra disprezzo o indifferenza per uno scrittore che continua a considerare nazional popolare. In ogni caso, grazie al ritrovato interesse per Dickens, negli ultimi anni si sono moltiplicate le traduzioni di saggi e racconti rimasti finora inediti nel nostro paese. Ultima in ordine di arrivo è la raccolta Natale nelle terre gelate, proposta sempre dalla casa editrice Mattioli 1885, che presenta alcuni dei saggi e racconti natalizi che Dickens aveva pubblicato con cadenza pressoché annuale dal 1851 al 1868 sulle riviste Household Words e All the Year Round. Nel 1852, dopo aver rievocato i Natali della sua infanzia nel bellissimo saggio L'albero di Natale, pubblicato l'anno precedente, Dickens propone una riflessione su come cambia la nostra percezione del Natale quando diventiamo adulti. La nostra vita qui è davvero tale da essere capaci di volgere in modo naturale, completo e profondo lo sguardo indietro a ciò che non è mai stato e sulle cose che sono state e che non sono più o sono ancora? Se è così, e sembra che sia proprio così, siamo forse costretti a concludere che la vita sia poco più di un sogno e che valgono poco gli amori e gli sforzi di cui abbiamo costellato quel lungo percorso? No, caro lettore, a Natale rimanga lontana da noi una simile malintesa filosofia. Lo spirito del Natale sia più vicino e più accosto al nostro cuore, cioè lo spirito di un'attiva operosità, di perseveranza, di un gioioso adempimento del dovere, di gentilezza e pazienza. È soprattutto grazie a queste ultime virtù che noi siamo, o dovremmo essere, esortati dalle visioni incompiute della nostra giovinezza. Perché chi può dire che non siano proprio queste virtù a poterci insegnare come trattare con delicatezza perfino le cose più insignificanti e impalpabili dell'esistenza? Dunque, quando finalmente diventiamo adulti, dovremmo essere più felici che si ampli l'orizzonte dei nostri ricordi natalizi e degli insegnamenti che essi comportano. Accogliamo gli uni e gli altri e facciamo loro posto accanto al focolare natalizio. Che siate benvenute sotto l'agrifoglio, quindi, antiche aspirazioni, creature scintillanti di una fervente immaginazione. Vi conosciamo e ancora palpitate nel nostro cuore. Anche voi, benvenuti, vecchi progetti e antichi amori, per quanto fugaci. Benvenuto a tutto ciò che è stato sempre vero e reale per i nostri cuori, e per la convinzione e lo zelo che vi hanno reso tali, sia ringraziato il cielo. Adesso non costruiamo più, tra le nuvole, castelli di Natale. Lasciate che ne rendano testimonianza i nostri pensieri, che svolazzano come farfalle tra questi bambini in fiore. Davanti a questo ragazzo si estende un futuro più luminoso di quanto pensassimo all'epoca nostra così romantica, ma che brilla di onore e verità. Intorno a quella testolina, piena di riccioli dorati, la grazia si diverte in modo leggero e arioso, come quando il tempo non poteva ancora falciar via i riccioli del nostro primo amore. Che tutto sia benvenuto. Benvenuto sia a ciò che è stato, sia a ciò che non è mai stato e a ciò che ci auguriamo possa essere. Benvenuto al riparo sotto l'agrifoglio e attorno al focolare natalizio, dove ciò che è siede a cuore aperto. Laggiù, nell'ombra, vediamo intromettersi di nascosto il volto di un nemico. È Natale, per cui lo perdoniamo senz'altro. Se l'offesa che ci ha arrecato può comunque tollerare una simile compagnia, lasciamo pure che si avvicini e si sieda. Altrimenti, che se ne vada tristemente, senza offenderlo e senza accusarlo. In questo giorno nulla sarà escluso. Avete ascoltato alcuni passaggi dal saggio di Charles Dickens Il Natale di noi adulti, tratto dalla raccolta Natale nelle terre gelate. Mattioli 1885 editore, 112 pagine, 9,90 euro.